Fujiko Factory, your musical playground. Buon lunedì di Fujiko Factory, io sono Lucri, in mia compagnia c'è... Kenshuro? Cosa facciamo oggi? Non lo so, ci dobbiamo pensare, perché io ammetto già che oggi ero in un ritardo assurdo, ho fatto mille cose contemporaneamente, ma incredibilmente siamo partiti puntualissimi, sono qua. Le 15:04, Fujiko Factory di lunedì, Lucri con Yogi, che avrà un'ora e mezza per pensare oggi chi è. Pensiamo, ma non vi... ce l'ho, non vi dirò niente, ma ce l'ho già. Allora, io direi che tra poco in realtà spoileriamo, perché è una puntata pienissima di cose. Vi parleremo un po' del Natale, un po' dissacreremo il Natale, perché alla fine chi ci sta ascoltando magari ama il Natale, ma sicuramente c'è anche chi il Natale propriamente non lo ama. Quindi andremo un po' incontro ai gusti di tutti e tutte. Ma soprattutto, alla fine, pochissimi giorni fa, finalmente è uscita fuori la classifica dei 26 big che parteciperanno a Sanremo 2021, che occasionalmente quest'anno sarà a marzo. Devi sapere che in radio a me prendono in giro per come dico marzo. L'ho notato, però ho deciso di non dire niente. Grazie, quindi. Vedi, sei una delle poche persone in questa radio che non me lo fa notare quotidianamente. Comunque marzo, infatti, è il mio mese peggiore per andare in diretta, perché devo continuamente dirlo e impegnarmi nel cercare di dirlo nel modo più radiofonico possibile. Comunque sarà la prima settimana di quel mese lì, 03, e ci sono tantissime novità, tra cui appunto 26 big. Anche i giovanissimi sono stati appena scelti, diciamo così, ma ovviamente come in ogni gara che c'è chi viene incluso ma anche chi viene escluso. Quindi noi oggi ovviamente parleremo anche degli esclusi, ma intanto voi potete tenerci compagnia con SMS, WhatsApp e Telegram 333 180 94 94 e vado a farmi l'ennesimo caffè della giornata. Ma intanto iniziamo subito con questa canzone che devi sapere, Yogi. Dimmi. Il bello della radio è anche quando ci si intrufola in programmi altrui. Io sabato ho fatto parte di Indeco Radio, quindi saluto Indeco Radio se ci sta ascoltando, che è il sabato dall'una alle due, e loro hanno messo questo brano, in realtà io perché facevo da regia. Ma dimmi che hai fatto anche la Lucri Scrinna Cose. Allora, anche per oggi ovviamente ci sarà Lucri Scrinna Cose. Sabato non c'è stato perché mi sono taciuta e ho solo fatto da regia, ed è difficilissimo. Infatti difficile. Oggi sono gasatissima che posso fare regia ma posso anche parlare. Però noi partiamo con il primo brano che dissacra un po' il Natale, è un remix. Ti piace il Grinch? Sì, l'ho visto, certo. Ma te ti senti il Grinch o ti senti... Questa domanda amletica, no, forse non mi sento il Grinch. Ok, ma sicuramente chi è in ascolto probabilmente un po' si sente il Grinch, anche perché quest'anno, diciamolo, sarà tutto un po' strano. Sì, sì. E quindi forse bisogna trovare nuovi modi per sentirci bene con questo santo Natale, ma intanto partiamo appunto con questa meravigliosa canzone remixata. Sentiamola. You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel. You're as cuddly as a cactus. You're as charming as an eel, Mr. Grinch. You're a bad banana with a greasy black peel. You're a monster, Mr. Grinch. Your heart's an empty hole. Your brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch you with a 39 and a half foot pole. You're a vile one, Mr. Grinch. You have termites in your smile. You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Given the choice between the two of you, I'd take the seasick crocodile. You're a foul one, Mr. Grinch. You're a nasty, wasty skunk. Your heart is full of unwashed socks. Your soul is full of gunk, Mr. Grinch. The three words that best describe you are as follows, and I quote, stink, stank, stunk. You're a rotter, Mr. Grinch. You're the king of sinful sots. Your heart's a dead tomato splotched with moldy purple spots, Mr. Grinch. Your soul is an appalling dump heap, overflowing with the most disgraceful assortment of deplorable rubbish imaginable, mangled up in tangled up knots. You nauseate me, Mr. Grinch, with a nauseous super nos. You're a crooked, jerky jockey, and you drive a crooked hoss, Mr. Grinch. You're a three-decker sauerkraut and toadstool sandwich with arsenic sauce. Mr. Grinch. È meravigliosa. Sì. Sì, sì, sì. Quindi questa canzone in realtà a modo suo un pochino secondo me ci fa fa entrare in qualche modo nel clima natalizio. E adesso in fuori onda, mentre correvo da una parte all'altra, ora io te lo dico anche in diretto, giuro, mi fermo. Okay, abbiamo fatto ufficialmente tutto, mi fermo, sì. Respiro anche un pochino, che non è male, però ti stavo facendo vedere il mio fantastico gilet. Ma infatti, cioè, sembra appena lavato con perlana, ma l'hai appena preso. Io non pensavo risalisse, cioè, perfetto. Esatto, risale al mio bisnonno e appunto io mi sento un ometto meraviglioso con questo gilet, mi calza a pennello, probabilmente sì. Il mio bisnonno era un po' magrolino e quindi è bellissimo. Ma io stavo pensando se avevo degli oggetti o degli indumenti addosso appartenuti a qualcuno che non c'è più, comunque che parte della famiglia, però in questo momento non ho nulla. No. Niente? No, ho pensato anche orologi, cipollotti, no. Cosa sono i cipollotti? Vecchie cipolle, cipollotti, giustamente quelli da fare con un po' di scalone, un po' di sedano. Ma hai fame, Yogi? A quest'ora sai che c'è sempre un po' di langorino, avrei voglia di qualcosa di buono, non so se ti ricorda qualcosa. Io ti dico che spesso dico di portarci in Via Zanardi 369 delle provviste di cibo, perché effettivamente a quest'ora, alle 15:11, un pochino fame anche a me sta venendo. Ah, sì. Mi sto preparando alla merenda. Questa sì, c'è la merenda, poi c'è il tè delle 5, qualche biscottino e poi l'aperitivo, poi la cena, insomma. E ci siamo, siamo in Italia, siamo le uniche persone che mentre stiamo mangiando riusciamo a parlare di cibo. Ma esatto, cioè è un nostra. Parlare di cibo H24, mi sto accorgendo soprattutto in questo periodo, perché alla fine anche, non so, avendo coinquilini o quant'altro, ovvio il momento della colazione, pranzo, cena e quant'altro è il momento in cui ci si ritrova, sì. Ma poi si passa anche il tempo dopo a continuare a parlare di cibo, ma stasera, tipo magari le 8 di mattina, ma stasera cosa mangiamo? Parliamo di cose serie, cosa mangiamo stasera? Perché quello, capito? Oppure adesso c'è, ma a Natale cosa mangiamo? Esatto, ma a Natale dove andiamo a Capodanno? Queste sono le cose che si chiedono. Che quest'anno un po' in realtà, con tutto questo meraviglioso decreto, il a Capodanno cosa facciamo si è un po' ridimensionato. Infatti. E quindi ce ne siamo tolta una probabilmente. Esatto. Però in questa puntata noi vi vogliamo parlare di tantissime cose, perché oggi è il 21, quindi c'è il solstizio, poi succedono cose tra Giove, Venere, la Luna, Uranio, non lo so, e appunto gli esclusi da Sanremo, chi invece ufficialmente parlerà di Sanremo, e vi ho preparato comunque, possiamo dirlo, Yogi, delle gran chicche. Però prima vi volevo leggere una piccola cosina, che dici? La spoileriamo subito? Ma diamo almeno una preview. Una cosa preview? Dici? Vai, sì. La dai tu la preview? Non lo so, ho ci fame, devi pensare. La dai tu, la preview. Oggi ho i capelli meno profumati dell'altra. Ecco, io invece li ho appena lavati, ma sono sparatissimi. Ma stai bene? Sto bene? Sì, benissimo. Sì, sì. Ma sai che appunto stiamo per parlare tra pochissimo del Festival di Sanremo, sì. Ma c'è una chicca. Finché la barca va, lascia andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Perché in realtà lei è quella più indie di tutti, perché sì. Questo Sanremo sarà secondo me molto indie, molto giovane, però poi abbiamo Lorietta Berti, che chi non conosce Finché la barca va, lasciala andare. Ma infatti lei è come, non so, come dire, un Highlander che è sempre lì che Beh, va un po' come la barca. Anche Michele Zarrillo, no? Quest'anno non ci sarà, ma Michele Zarrillo cosa fai nella vita? partecipo a Sanremo. Cioè, esatto, sono quei cantanti. Oppure dopo vi racconteremo i Gialisse. Non so se voi ve li ricordate. Tu, Yogi, te li ricordi, Gialisse? Certamente sì, 97. Fiumi, cioè, di io avevo due anni. Fiumi di parole. Cioè, noi stiamo tagliando Orietta Berti per Fiumi di parole. E i Gialisse sono 24 anni che ci riprovano a tornare a Sanremo. E con risultati pessimi, alternati, insomma. Vabbè, non sono, esatto, non sono più ritornati. Speravano in questo 2021 e sono usciti tantissimi articoli in questi giorni in cui i Gialisse dicono: ma noi sono 24 anni che ci riproviamo. Però è un grande insegnamento, che mai mollare nella vita. Infatti è quasi mobbing, cioè quasi stalker. Sì, potrebbe effettivamente essere un po' stalking. E appunto loro vissero, credo, con questa canzone Fiumi di parole, però anche la loro carriera poi si finisce qui. Sì. Fiumi di parole, e che però appunto si fermano qui. E poi in realtà dopo vi spoileriamo questa cosa qua, che è meravigliosa. Buco. Buco. C'è buco. Che sta succedendo? Ah, che meraviglia. Buco. Buco. Vado a vedere dove è buco. Se n'è andato. Ma la voglio come ma sveglia. Come sveglia la mattina. Perché appunto Bugo quest'anno ci sarà, ma senza Morgan. Attenzione. Vedi, ti entra subito. Sì, sì, ma questa è una hit. Su YouTube ormai c'è da un anno. E effettivamente anche tutto questo periodo. Non ho capito niente di quello che effettivamente anche noi non abbiamo capito niente, soprattutto chi lo stava vedendo in diretta. Però allora si dice, noi abbiamo passato questo 2020 che grazie a Dio è quasi agli sgoccioli. Sono successe due cose straordinarie. La prima, il famoso schiaffetto del Papa. Sì. E la seconda, questa hit Dov'è Bugo. Esatto. Quindi questo è da dove ha avuto origine tutto questo anno disastroso, tutto l'universo. E quindi noi speriamo che si chiuderà tutto a marzo, esatto, con Sanremo, con Bugo sul palco, Bugo. senza Morgan. In effetti sì, dopo quel dissing, insomma, io apprezzo tantissimo questo pezzo, che sarà, come ho detto, la mia sveglia, la mia suoneria, insomma, per qualsiasi guarda cosa. Che ora sappi che io, cioè, voglio mi proprio chiamerai. Sì, ti chiamerò, la metti anche come mia suoneria personale, quindi quando io ti chiamerò o ti manderò messaggi, soprattutto, certo, quando prepariamo la puntata, deve partire Bugo. Cioè, Bugo. Che se non te la ricordi questa cosa qui. Vediamo se riparte. Cioè, è straordinaria. Appunto, anche perché in realtà la loro canzone a me piaceva tantissimo. Ah, infatti, sì. Che poi appunto la canzone poi tutti se la ricordano in realtà come è stata modificata da Morgan, appunto improvvisata con questo bigliettino tipo mezzo stracciato scritto al momento. Ed è una cosa magica, che poi tipo è stato messo anche all'asta, è andata la Barbara, sì, D'Urso a parlarne, cioè ne è successa di ogni. Ma appunto con anche Lucri Screen a cose, ecco, ho cercato arrivati. Ovviamente molte cose su Sanremo 2021, che appunto sarà ancora capitanato da Amadeus, ma anche insomma dal ritorno di Fiorello, che io ammetto essere una grande fan di Fiorello. Appunto noi vi parliamo anche un pochino di chi in realtà è stato diciamo non scelto, perché succede. Abbiamo detto appunto i Gialisse, che sono 24 anni, che questo duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian non vengono selezionati per partecipare alla Kermesse. Quindi io direi, insomma, accendiamo un cero per lanciamo i Gialisse. Sì. Fateli partecipare. Hashtag l'anno prossimo, fateli partecipare. E infatti loro hanno espresso la loro disapprovazione per essere stati esclusi per la 24esima volta. Potrebbe essere un format su Real Time, esclusi per 24, esatto, volte. Potrebbe fare una serie TV, un reality. E infatti loro parteciparono, come giustamente hai detto prima tu, nel 1997 con la canzone Fiumi di parole. Loro sono due coniugi e hanno appunto rivelato sulla propria pagina ufficiale che sono 24 anni che ci provano. Infatti loro hanno scritto: anche stasera, come da 24 anni, con 24 diverse presentate canzoni, i Gialisse non sono stati scelti tra gli artisti che saliranno su quel palco. Chissà, ci aspettavamo una sorpresa dell'ultimo minuto, del resto siamo sognatori. Beh, però voi continuate a sognare, però a questo punto io direi fate uscire un album con queste 24 canzoni in cui, boh, Sanremo lo facciamo noi, non lo so, con un titolo accattivante è un marketing che funziona, secondo me. Poi vi lanciate sui social, insomma, alla fine DiCaprio ce l'ha fatta a vincere l'Oscar. Vedi, a furia di chiederlo. Sì, effettivamente a furia di chiederlo prima o poi ci si può anche arrivare ad ottenerlo. Tra l'altro sono più persone escluse, diciamo, perché alla fine viene veramente comunicato in diretta su Rai 1, come è avvenuto giovedì scorso, ma le persone non lo sanno, quindi erano più di 300 i brani. Infatti da qui la scelta di farne diventare 26 e non 20 o 21, insomma, poi ogni anno cambia. Ma un altro escluso è Michele Bravi, che appunto a questo punto pubblicherà il suo album il 29 gennaio, che si chiama La geografia del buio. Poi non so se hai visto che in questi giorni è girata tantissimo su Pagine Molto Indie una classifica, una lista di nomi papabili, ed erano veramente tanto indie, tra cui in realtà c'erano anche i Fask. Sì. I Fast Animal and Slow Kids, e loro hanno detto: noi saremo assolutamente no, è una fake news. Ah. E quindi loro hanno detto che una storia pubblicata sul loro account ufficiale Instagram, Aimone Romizzi, ha appunto dichiarato: non siamo a Sanremo, è una fake news, mi sta descrivendo in 180.000. E poi ha aggiunto: per news in merito chiedete direttamente all'Ama Nazionale, perché ormai appunto è già nato l'hashtag Ama Nazionale, riferendosi chiaramente al conduttore e direttore artistico che anche quest'anno appunto sarà Amadeus. Quello del gruppo è tra i più gettonati negli ultimi giorni del Toto Nomi, ma appunto loro non ce l'hanno fatta, cioè in realtà non ci volevano proprio partecipare, anche perché anche qui si può aprire una infinita parentesi in cui non tutti gli artisti ovviamente vogliono andare a Sanremo. Ci sono quelli che ci provano per 24 anni e a chi non interessa assolutamente niente. Morgan è uno di quelli che quest'anno non è stato, diciamo, voluto, anzi è anche stato propriamente tolto. Lui era nella giuria per scegliere i giovani, non ho capito bene perché cosa sia successo, ma nell'ultima puntata Morgan è uscito dalla casa del Grande Fratello, è uscito ufficialmente, e appunto poi probabilmente voleva ripresentarsi a Sanremo. Insomma, c'è questo dissing meraviglioso con Amadeus, e Morgan ha pubblicato anche gli screenshot, quindi addirittura c'è, quindi Morgan screena cose, esatto, quindi Morgan mi ha rubato il lavoro ed è no. Morgan screena cose e quindi io direi di alzarci con il piede sinistro, che Morgan ci insegna essere il sinistro. Altrove, Morgan. Però cosa vuol dire però? Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Forse già lo sai, a volte la follia sembra l'unica via per la felicità. C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva: sto meglio in un pozzo che su un piedistallo. Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco. forse visto. Svincolarsi dalle convinzioni, dalle pose, dalle posizioni. E questo era appunto al Trove di Morgan, ma cioè questo io vorrei metterlo in loop per tutta la puntata, perché appunto dov'è Bugo? Bugo e Morgan rimarranno sicuramente però nella memoria di questo Sanremo, dello scorso sì. Sanremo, ma in qualche modo ci saranno sicuramente trascichi anche in questo Sanremo 2021. Poi ovviamente questa è la nostra ultima settimana di Fujiko Factory, arriviamo insieme a voi in realtà fino alla vigilia di Natale. E poi appunto ci prendiamo un piccolo periodo di pausa e poi torniamo più cariche e cariche che mai l'11 gennaio, quindi che ripartiremo con Fujiko Factory 2021, tutto nuovo, tutto diverso, tutto uguale, tutto bello Lo so che vi mancheremo, però insomma tenete duro e che poi arriviamo sì assolutamente. Se diciamo l'anno prossimo, in realtà sapete che non è questione di troppi mesi, anzi oggi è il 21 quindi... Esatto, oggi è il 21 dicembre, mi fa stranissimo essere in radio il 21 dicembre, perché l'anno scorso credo che abbiamo forse finito qualche giorno prima, adesso ho vaghi ricordi, non mi ricordo esattamente, però questa settimana, quest'anno vi terremo compagnia in realtà fino al 24, poi il 25 troverete sul nostro sito www.radiocittafujiko.it un nostro insomma saluto di fine anno di tutta la redazione musicale di Fujiko Factory, così come sui nostri social. E poi sta continuando, in realtà sono già stati pubblicati alcuni video portando avanti la nostra rubrica inchiesta Please Don't Stop the Music, dove appunto stiamo creando una sorta di palco virtuale, dove appunto voi ci potete mandare la vostra arte, voi che suonate, che cantate, che leggete poesie, che recitate, e noi appunto vi daremo il nostro spazio social, quindi un palco virtuale, perché appunto la musica e l'arte non si devono assolutamente fermare. E noi ci sentiamo anche in dovere di trasmettere questo brano, perché appunto i FASC non saranno a Sanremo, era una fake news. Bello dirlo, è fake news, in radio è molto bello, ma loro credo l'anno scorso, un paio d'anni fa, hanno fatto uscire questo brano, che ovviamente questa gag l'ho già fatta più volte, perché loro hanno fatto questo brano che letteralmente sul ritornello dice: metti questo in radio, se hai un cuore passa questa canzone. Yogi, ce l'abbiamo un cuore? Ma io direi proprio di sì, io lo metterei questa qui canzone. Lo mettiamo perché abbiamo un cuore e quindi sui 103.1 i FASC con Radio Radio. Ti ho messo a tempo i cori, ho recitato il giusto, ma adesso non ne ho più. Se guardo la finestra, sento una mia canzone, vorrei sfondare il vetro e non pensarci più. Ne ho visti troppi andare, la coda fra le gambe, la musica gli riempie il cuore solo se poi vende. E allora cosa fare per arginare il tutto? Mi urlo in faccia una canzone per farmi coraggio. Psycho! per chi non sa parlare. Ci vogliono dei suoni per chi non vuol sentire. Allora sai che faccio? Metto una rima in fila, parlo di quotidianità, così ti senti in cima. Questa devi sapere che è la mia canzone natalizia per eccellenza. E infatti quando sono stata, insomma, a Madrid, Barcellona, sempre in periodo natalizio, e vedevo in giro i Babbo Natale che la cantavano, cioè per me questa cosa qua è la gioia del Natale. Oh. E tra l'altro ci sta anche ascoltando Anna Uras, che dice: vi sentiamo tra la neve sui colli liguri. Un salutone, un salutone, Feliz Navidad, e soprattutto torna prestissimo in quel di Bologna, perché appunto lo dicevamo anche noi prima, intanto teniamoci in sottofondo la bellezza del Natale, certo. E che appunto ci stiamo avvicinando, ma a me non sembra assolutamente no, cosa non ma c'è proprio l'atmosfera non classica c'è. E quindi la dobbiamo un po' ricreare, quindi voi che state ascoltando Radio Città Fujiko, cerchiamo, come vi abbiamo detto all'inizio, un po' lo dissacriamo e un po' lo amiamo. Quindi un po' sì e un po' no, così cerchiamo di accontentare tutti. Però insomma, José Feliciano con Feliz Navidad è meravigliosa. Sì. Si abbina ancora? Con tutto, ancora. Improvvisiamo un balletto, dai, sì. Possiamo farlo. Ma fatelo anche voi da casa, qualsiasi cosa state facendo, se siete tipo come Anna in mezzo alla neve. Anna, fai un pupazzo di neve anche per noi. Sì, esatto. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno e felicità. Va bene, ma è arrivato il momento cultura. Sì, è finita José Feliciano, ma ora appunto momento cultura. Ma intanto voi potete fare anche come Anne e continuare a scriverci al 333 180 94 94. Mi sono già arrivati dei messaggi di persone che ci stanno ascoltando mentre cercano regali di Natale. Utile. Importante. È un periodo importante, io sono la prima che oggi e domani andrà a comprarne alcuni, perché devi sapere che e il Natale con i miei genitori l'ho già fatto e quindi i regali li ho presi. Certo, sì. Quindi una giornata in Bolognina sono riuscita a fare tutto, ma mi mancano molti altri regali, che per fortuna i regali che mi mancano non sono, sono sicuramente persone che non sono in mio ascolto, perché sono già mezze offese che hanno intuito che il regalo che dovrò scambiare domani ancora non c'è. Attenzione. Ma neanche nella mente, e il tempo non c'è, quindi né il regalo né il tempo, però vabbè, in qualche modo si farà, perché in realtà a me fare i regali piace tantissimo. Ti posso consigliare quel posto del tè che parlavamo con potrebbe essere un'idea, perché effettivamente anche la settimana scorsa abbiamo cercato di darvi un po' dei consigli. Ma un'altra cosa che a me piace tantissimo fare è anche regalare parole e regalare poesie. Infatti per la rubrica Lucri cita poesie abbiamo qua una bellissima bambina che ha 8 anni che ci citerà una bellissima poesia. Sono io? Sì. La bambina di 8 anni. Ho deciso. Allora, di Ojos de Neptuno abbiamo questo bellissimo pezzo che abbiamo deciso di citarlo, di dirlo qui in radio, perché secondo noi è molto molto bello, e quindi ve lo regaliamo. A proposito di regali, e abbiamo qui questa bellissima bambina, si chiama Lucri, che ce lo citerà. A scuola non mi hanno parlato della luna e delle sue fasi, della terra e dei suoi cicli, di come distinguere gli alberi e rispettare gli animali, la natura col suo ecosistema. Non mi hanno parlato della morte come nascita, non mi hanno parlato della sessualità come sacra, non mi hanno parlato del corpo come tempio emotivo. Mi hanno parlato di adattarmi, di adattarsi, mi hanno detto di sedermi sempre nello stesso banco e vedere ripetutamente un solo angolo delle cose. Mi hanno giudicato con i numeri, mi hanno fatta sentire a volte di più, ma quasi sempre meno di un altro. A volte meritavo, altre volte no. Mi hanno detto che ero distratta, ribelle e irrispettosa. Mi hanno detto di stare zitta, di studiare anche quello che non mi piace, altrimenti tiravano fuori un foglio come minaccia. Mi hanno voluto far paura, mi hanno voluta sottomessa, mi hanno voluta sistemica, mi hanno voluta senza discutere, mi hanno voluto obbediente, mi volevano in ordine, ma mai nessuno ha voluto che mi si scoprisse. Nessuno mi ha aspettata, nessuno mi ha chiesto, nessuno si è fermato a guardarmi. Quando ci sarà una scuola che ci guardi davvero ciascuno? Quando smetteranno di volerci tutti uguali? Quando cominceranno a volerci accettare nella diversità e nella parità? Fin qui arriviamo con questo metodo. Siamo lupi battezzati come cani. Voglio ululare alla luna senza che mi dicano pazza. Voglio vivere al mio ritmo, nessun altro obiettivo. Voglio sentire senza paura. Ti regalo la mia struttura, ti regalo la mia produttività. Lasciami. Lasciami libera, creativa, e anche se non ti piace, anche se ti infastidisce, tu lasciami pure, selvaggia. Che sensazioni veramente belle e anche di libertà che ci lascia questa poesia, quindi grazie per averla raccontata. È la piccola Lucri di 8 anni che appunto non ha particolarmente amato l'istituzione scolastica, perché appunto ti vogliono sempre in un certo modo, però a parte tutto è una cosa che appunto Lucri scrinna cose, l'ho scrinnata, l'ho trovata, l'ho letta e ho pensato appunto di condividerla con voi all'interno di Fujiko Factory sui 103.1, anche perché noi oggi, cioè in questi giorni, succedono cose e anche il Doodle di Google, sai cos'è il Doodle di Google? No. È come scrivono Google, cioè quando tu vai su Google c'è Google scritto in un certo modo, però ogni tot ci sono meravigliose persone che lavorano dietro a queste cose e prendono, insomma, c'è l'animazione su qualcosa. In questi giorni appunto il Doodle di Google è tutto insomma è tutto dedicato al fatto che c'è il solstizio d'inverno e la congiunzione tra Giove e Saturno. Infatti oggi 21 dicembre, oltre a essere il solstizio d'inverno, e dire la parola solstizio è veramente difficile, molto, è il giorno in cui immagina si può giovanotti come farà solstizio. È il giorno in cui si può osservare a occhio nudo per la prima volta dopo ben 800 anni il fenomeno celeste che ha guidato i magi verso Betlemme. Però tu effettivamente oggi potresti fare i 3 re magi. Tutti e tre? Tutti e tre, perché stiamo arrivando appunto al Natale, sei stato le sorelle Müller, la vocalist, poi non mi ricordo tutte le altre tue trasformazioni. Sono come Bracchetti, cioè li cambio sempre ogni minuto. Oggi potrei fare Baldassarre. Baldassarre, te le ricordi i nomi di tutti e tre? Ma direi di sì, adesso io li cito, no. Un piccolo yogi, Baldassarre, Melchiorre e Gaspare. Ok, Gaspare mi piace, Baldacca, ok, vedi, io li stavo già confondendo, ma appunto, insomma, ho davanti a me i tre re magi e appunto Giove e Saturno si avvicinano tanto da darsi quasi il 5, appunto, nel Doodle di Google, che ora andranno tutti a cercarlo. Si tratta però di un effetto ottico, perché nella realtà i due pianeti più grandi del sistema solare si trovano a una distanza di circa, sentite un po', 724 milioni di chilometri. Ah, dietro l'angolo. Esattamente, okay. Dietro l'angolo letteralmente. E quello di oggi però sarà particolarmente raro, perché appunto questo allineamento viene chiamato grande congiunzione e si verifica ogni 20 anni. Ma questa volta è raro perché l'inclinazione delle orbite dei due pianeti li farà sembrare così vicini da sembrare un unico corpo celeste. Però io sto parlando di questa cosa, ma devo assolutamente, cioè dobbiamo darci una sorta di credibilità. Ok. E secondo te come facciamo ad avere credibilità? Chiamiamo il mago Telma? No, non era questo. No, ma sai, secondo me se chiamiamo il mago Telma non abbiamo credibilità. L'unica cosa che ci può dar credibilità è questo. Oh. Capisci che se noi parliamo di stelle e abbiamo in sottofondo la sigla di Super Quark, possiamo essere più che credibili. E appunto stavamo dicendo che l'ultima congiunzione così stretta è stata osservata da Keplero e Galileo, quindi prima di leggere questi nomi dovevo avere un po' di Alberto Angela con me. Hai ragione, la tua street credibility adesso è molto più è altissima, alta. Capito? Infatti questa cosa è successa 400 anni fa, è stata osservata da Keplero e Galileo con i loro canocchiali. Quella di oggi invece sarà visibile a occhio nudo, quindi è la prima volta che si può vedere ad occhio nudo a distanza di 800 anni. Quindi i pianeti, appunto nel Doodle di Google, li trovati imbiancati dalla neve. Perché appunto mette insieme queste due cose, perché oggi è anche il solstizio d'inverno e quindi è la giornata più corta dell'anno. E a me viene da piangere a leggere che è la giornata più corta dell'anno, perché è una delle giornate in cui devo fare più cose e quindi ho appena letto che è pure la più corta. Ma comunque l'apparente vicinanza di Giove e Saturno dà all'osservatore l'impressione di vedere un solo astro. Keplero è stato uno dei primi studiosi a ipotizzare che fu proprio questo allineamento a guidare i re magi, che noi oggi abbiamo qui in rappresentanza, esatto, con gli yoghi, dall'Oriente verso Betlemme. E quindi la teoria nel corso dei secoli è stata supportata da altri scienziati, tra cui Grant Matthews, si leggerà così? Sì. I don't know, astrofisico dell'universo di Notre Dame. Incrociando i dati storici e astronomici con quelli biblici, lo studioso è arrivato alla conclusione che il fenomeno osservato dai re magi, sacerdoti zoroastriani, grazie, dell'antica Persia, fu la grande congiunzione che è avvenuta nel 6 a.C. Per questo l'evento è chiamato anche stella di Natale. Come osservare? Perché in tutto questo vi abbiamo fatto tutta la storiella, però se lo volete osservare vi diamo qualche dritta. Per poter rivedere questo fenomeno bisognerà attendere quasi 60 anni, quindi yoghi, facciamo così, valutate voi quanti anni avete, se pensate che fra 60 anni ci rivedremo qui, allora magari potete, se no io vi consiglierei di fino, perché la prossima volta sarà il 15 marzo 2080. Ok. Impegnativo. È un po' in là. Quindi l'occasione di oggi è imperdibile. Per osservare la congiunzione a occhio nudo, sentite un po', è necessario aspettare che il sole tramonti e guardare nella sua direzione. Quindi dovete guardare nella direzione in cui tramonta il sole. E verso le 17, meteo permettendo, si inizieranno a vedere Giove e Saturno vicinissimi. Oppure in alternativa, perché siamo molto social e molto ormai Google telepatici, si può guardare la stella di Natale in diretta streaming sul sito Lowell Observatory in Arizona e il Virtual Telescope di Gianluca Masi a partire dalle 16:30. Quindi se siete molto tecnologici, collegatevi, se no semplicemente dalle 16:30 guardate il sole tramontare e guardate in quella, esatto, direzione, che insomma secondo me è un attimino più carino. Tu cosa dici? Ma guardatelo e vediamo se scatta la magia, dipende dalle nuvole, però io sono, devo dire, molto molto curiosa, yoghi, quindi scopriremo. E io non ci credo, ma Anna Uras ha appena mandato un video in cui sta facendo un babbo cioè un pupazzo di neve. No, cioè magico, non si sta caricando, ora si sta caricando, è piccolino, carinissimo, ora me lo guarderò, ma intanto, Yogi, ti faccio tornare ad avere 20 anni. Vai. Da pochissimo è uscita questa canzone dei Maneskin e quindi anche i nostri tre re magi torneranno ad avere 20 anni come i Maneskin, che parteciperanno alla 71esima edizione di Sanremo. Thank you. stupire se dal niente faccio drammi. Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri. Ma c'ho solo 20 anni e già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso. Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo, quindi scegli le cose che sono davvero importanti. Scegli amore o diamante, demoni o santi. Sarai pronto per lottare oppure andrai via e darai la colpa agli altri, o la colpa sarà tua. Correrai diretto al sole oppure verso il buio. Sarai pronto per spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero, andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E anche se ho solo 20 anni dovrò correre. Io c'ho 20 anni, non mi frega un cazzo, c'ho zero da dimostrarvi. Non sono come voi che date l'anima al denaro, dagli occhi di chi è puro siete soltanto codardi. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, spiegare cos'è il colore a chi vede bianco e nero. E andare un passo più avanti, essere sempre vero, e prometti domani a tutti parlerai di me. E questi erano i Maneskin con 20 anni, appunto loro sono usciti da pochissimo con un loro nuovo album e parteciperanno appunto alla 71esima edizione del Festival, come oh, direbbe Festival. Pippo Baudo, io vorrei tanto essere Pippa Bauda. E il gilet del bisnonno potrebbe aiutare nel farmi sentire un po' Pippo Baudo. Ma te te lo ricordi quell'anno a Sanremo che appunto presentava Pippo Baudo e sono entrati cloni di Pippo Baudo, quindi sul palco, adesso non mi ricordo, forse era 60 qualcosa Festival di Sanremo e c'erano tanti quanti Pippo Baudo. Erano inquietanti. Fatto poi a, cioè sono stati anche molto bravi. Sì. Chissà se l'hanno riconosciuto e poi hanno detto sei sì, tu. Sì, poi esatto, chissà se hanno capito quale effettivamente era subito. Poi magari ci ha messo un po'. Beh, io vorrei avere tanti cloni. E che cosa gli faresti fare? Non so, tipo la mia giornata di oggi che ci sono tante cose da fare, tipo lascerei la Lucri qua, insomma la figura ufficiale qui in radio che è il posto dove vuole stare. Poi c'è quella Lucri che dovrebbe andare a fare i regali di Natale, la Lucri che dovrebbe pulire casa perché oggi a sorpresa arriveranno i proprietari di casa avvisati pochi minuti prima, quindi è anche esatto. Un po' il motivo del mio ritardo di oggi, quindi questi imprevisti, no? Tu ti organizzi la giornata e poi scopri che ti va tutto in fumo e quindi devi fare le corse, no? Quindi ecco, in questo caso avere qualche clone di Lucri potrebbe essere utile. Tu Yogi? Io vorrei tanti Oompa Loompa, mia immagine e somiglianza, che nelle volte in cui vuoi stare a casa, vuoi essere pigro, non vuoi fare sport perché a volte non hai voglia, vadano in posta, vadano a pagare i parcheggi, fare tutte queste cose. Ecco, io dovrei anche andare in posta perché la storia della mia vita è prendere multe, quindi ne ho presa un'altra perché no. non ho pagato il parcheggio. Pagate sempre il parcheggio mi e quindi devo anche andare in posta. Pubblicità progresso. Esatto, paghiamo le multe e cerchiamo di non prenderle. Ma a proposito di questo, appunto, puntata anche un po' dedicata all'Amadeus, direttore artistico, che finalmente ci ha fatto sapere i nomi, però effettivamente non ve li abbiamo siamo detti tutti. No, sono 26 big del Festival di Sanremo 2021, dal 2 al 6, quel mese lì che io non dirò, dopo febbraio, esatto, annunciata appunto dal direttore artistico e conduttore. C'è un'ottima rappresentanza del mondo indie, io sono veramente tanto felice, ma anche del cantautorato moderno. Ad esempio il duo Colapesce di Martino, i Comacose, Fulminacci, Joe Evan, Bugo, che appunto insomma, eccolo, lo abbiamo più volte e più volte citato, però insomma io non posso non... Ma infatti ti aspettavo al varco. Sì, sì, cioè, sì, ormai abbiamo capito che è questo, appunto Bugo senza Morgan, che appunto non ha nemmeno partecipato alla serata a causa della sua dichiarazioni contro Amadeus e l'organizzazione per l'esclusione del sovrano. Quindi Morgan fa sempre cose a ridosso di quando devono farlo, insomma devono dargli dei verdetti, quindi in particolare Morgan contro Sanremo, non impara contro Sanremo, insomma qualche anno fa infatti aveva fatto delle dichiarazioni insomma sulla droga e non era stato ammesso, quindi insomma la storia di Sanremo si ripete sempre con Morgan. Ma appunto poi ci sarà Arisa, il gran ritorno di Noemi, di Malika Yan, e appunto sono tanti effettivamente i nomi. Poi dalla cavalleria di Maria De Filippi, Gaia, ma anche insomma una vecchia gloria, come abbiamo detto prima, appunto, però aspetta, io per ridirla devo proprio presentarla bene. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, incredibile. Finché la barca va. Tra l'altro appunto in questa serata si sono presentati tutte queste persone e hanno insomma sono andate fisicamente a Sanremo, a parte Orietta Berti perché appunto non stava molto bene e quindi si è collegata da casa. Ma poi anche il rap quest'anno è ben rappresentato perché arriva Madame, Random, Fasma e Willy Peyote. Quindi io devo dire che a me piacciono veramente tutti, ma ci sono anche dei graditi ritorni. Infatti io diciamo citerò quel comando il battaglione dei graditi ritorni, tra Ermal Meto, Un milione di cose da dirti, poi Max Gazzè, grandissimo, con la trifluoperazina, non andate a cercarlo in farmacia, non penso che esista, Monstery Band, infatti la canzone si chiama Il farmacista, e vedi tutto torna, tutto torna. Poi beh, abbiamo Irama, Gemo, Lo Stato Sociale, che risentiremo, Francesco Renga, Maneskin, che abbiamo appena sentito, Aiello, Extraliscio, Davide Toffolo, insomma veramente tanti tanti artisti, tra ma anche gli morti. Ultimi ma non per ultimi il ritorno, anzi no, il ritorno è di Francesca Michelin, ma che quest'anno arriverà con Fedez. Tra l'altro la Ferragni partorirà in quel periodo. Ah, allora è una congiunzione astrale. E quindi astrale è una congiunzione anche astrale anche quella. Tra l'altro i Ferragnis che hanno appena vinto l'Ambrogino d'Oro. Sì. Settimana scorsa abbiamo detto che Vasco Rossi ha vinto il Nettuno d'oro e noi stiamo cercando di capire come fare il Fujikino d'oro perché vogliamo anche noi il nostro premio dentro insomma Fujiko Factory. Quindi giusto. Fujikino d'oro e insomma i nomi sono veramente tanti. Però io sono felicissima, non me l'aspettavo, torna allo Stato Sociale, lo Stato Sociale che in un qualche modo è anche nato grazie a Radio Città Fujiko, passavano di qui, il Bebo la domenica trasmette fantastico il suo programma all'interno dei 103.1 e poi risbarcano a Sanremo, anche perché la partecipazione dello Stato Sociale a Sanremo ha portato sicuramente a più inclusione del mondo indie, del mondo giovane, sì, insomma, certo. Quindi è bello che dopo insomma la vecchia che balla loro ritornino. Tra l'altro tornano con una canzone che si chiama Combat Pop, quindi devo dire che le canzoni dello Stato Sociale già dal titolo capisci molte cose. Infatti noi ora vi faremo ascoltare una canzone che secondo me è straordinaria dello Stato Sociale, dove io farò una dedica speciale perché l'ho sempre ascoltata questa canzone, ma quando ascolti una canzone che ha dei riferimenti personali li apprezzi di più. E infatti la prima volta che ho ascoltato questa canzone con il riferimento io ti amo ma tu sei vegana è stata veramente una riscoperta meravigliosa. Il brano è divertentissimo, quindi è anche un modo per stemperare un po', e il brano è In due amore, in tre è una festa. Fiesta! Sono 4 anni che ti amo e non ti ho mai parlato di Zeman. Così ti sei scordata che giochiamo con la palla e non con la catena. Sono 10 stagioni che ti amo ed una in più che sono rimasto senza di te. Hai detto non ti comporti davvero uomo, se stiamo insieme deve esserci un cliché.

E visto che abbiamo appena messo questo brano, siamo tornati in onda sempre Lucri Yogi, Yogi Lucri, e volevamo fare un trenino. Perché comunque il clima della canzone era un po' questo, quindi Yogi, io ho questo bellissimo brano di 2 minuti e 40 di Pepe Pepe Pepe. Allora tiriamo fuori le paillette, i brillantini. Sì, vabbè, io ho il gilet del bisnonno. Hai ragione. Però le paillette le possiamo avere quante ne vuoi. Ecco, possiamo fare che i nuovi Re Magi cosa portano? Glitter? Re Magi, come dice un caro amico, l'oro, Vincenzo e birra. Ecco, benissimo. Ecco. Quindi l'oro. Anche loro. Anche loro portano Vincenzo. Portano Vincenzo e la birra. E la birra. Quanta birra beve Vincenzo con loro? Ma speriamo almeno una, insomma. Almeno due. Una. Tra l'altro, sai che a proposito di birra, regali di Natale, mi è appena venuto in mente che il Magnolia a Milano, che è tipo il posto dove ho lasciato il mio cuoricino, che è un posto meraviglioso dove principalmente l'evento che più segue è il Miami, che ovviamente lo scorso anno non c'è stato, hanno provato a spostarlo in ogni modo, chissà se succederà. Innanzitutto sono partite tantissime frasi anche relative a Sanremo, perché in realtà Sanremo quest'anno sembra molto il Miami. Miami, che è questo festival con 4-5 palchi, da famosissimi a persone comunque, diciamo, nuove reclute, quindi ad esempio anche i Coma Cose si erano esibiti, un Calcutta che io ho conosciuto così, me lo sono vista così, mezzo sbronzo, ci ho fatto una foto mentre lo intervistava alla Rai, e poi si è esibito sul palco, sulla collinetta, ma in realtà praticamente poi è stato anche Calcutta, una persona che poi più volte ho visto al Miami. Parliamo anche di Calcutta, ma poi scoprirete perché. Ma appunto il Miami, o comunque appunto il Circolo Magnolia, come regali di Natale aveva fatto una cosa fighissima, anche a proposito di Vincenzo che porta a loro la birra, e avevano fatto questi pacchetti di birre personalizzate con anche tutte cose relative ai loro concerti. Quindi tu con tipo 12 o 13 euro avevi queste 6 birre personalizzate, dei poster di concerti, un gettone birra per quando riapriranno. Pure. E quindi non so, era secondo me un regalo bellissimo. L'unico problema che però ci può stare è che consegnavano solo comunque in zona Milano, e quindi non sono riuscita, anche perché lo volevo regalare a Mauro ed Erika. Ah, giusto. Quindi non so se sono il nostro ascolto, però io volevo troppo regalarlo a loro, perché sono le persone che, cioè, The Festival Backpack, gli regali la birra, un gettone birra, gli regali, insomma, dei manifesti su concerti, secondo me era il loro regalo perfetto. Però niente, non sono riuscita, ma ecco, questo è un modo, anche lì, il gettone della birra, no? La birra sospesa nell'attesa appunto di poter tornare a far musica dal vivo, che è la cosa che ci manca di più, e fare i trenini. Oh, tirate fuori i vostri boa, voi di casa che ci ascoltate. No, ma anche perché a me manca fare i trenini, mi manca, insomma, andare ai concerti, quando ti spintoni i concerti. Oh, che belle cose. Cioè, sono proprio veramente belle cose. E anche un po' questa canzone è molto Capodanno, anche Capodanno quest'anno, chissà come lo faremo, quando probabilmente tutti vorremmo essere in un trenino meraviglioso. Che bello, che poi ci si perde, ci si riprende, senti delle mani sulle spalle. Esatto, ci manca il contatto fisico. E quest'anno avremo, insomma, l'anno prossimo chissà cosa esattamente succederà, ma di certo, insomma, ci manca la musica dal vivo, ci mancano tutte queste cose qua, ma che a suo modo, secondo me, un pochino la radio. E infatti la radio in questo anno è stata tanto rivalutata, no? Molto, si diceva tanto è un media, insomma, ormai c'è la televisione, c'è Netflix, c'è lo streaming, ma quello che ti dà la radio è un'altra cosa. Quindi io oggi mi sono svegliata gasatissima, e penso si senta, anche perché ho detto, ma io faccio un mestiere veramente fighissimo. Sì, e cioè, quindi è bello come la radio appunto in realtà sta, non so, si sta stravolgendo secondo me in questo periodo, e quindi insomma cerchiamo anche qualcosa di bello come il nostro trenino. Lanciamoci. E Lucri e Yogi appunto si lanciano con questo trenino, poi vi prometto che vi faccio risentire Dov'è Bugo e Finché la barca va, lasciala andare, assolutamente. Però noi volevamo anche parlarvi, ormai brevemente, perché la nostra puntata sta quasi giungendo al termine, che c'è la cultura, insomma è un piccolo momento Lucri Yogi cultura. Dal pigiama al caffè, 7 parole universali che non serve tradurre. Infatti ci sono delle parole a cui corrisponde lo stesso significato in tutte le lingue. Il motivo, in qualche caso, come mamma, è abbastanza noto. In qualche altro è più sorprendente, perché ci sono parole che, passando da una lingua all'altra, assumono espressioni completamente diverse. Infatti alcune addirittura risultano quasi intraducibili. Ovvero, o comunque al contrario, ci sono però anche delle parole che quasi non hanno bisogno di traduzione. che suonano stranamente simili a tutte le altre. Infatti, ad esempio, pigiama. In lingua hindi e ardu è una parola simile che sottendeva un tipo di pantaloni larghi legati intorno alla vita. Dopo la colonizzazione, gli inglesi mutuarono. Ma tu. Com'è che si legge questa parola? Mutuarono dagli indiani a Yabu il capo d'abbigliamento, che si portarono a casa anche il termine che lo identificava, pajama. Ah. Credo si pronuncia così. Ma ben vedere, una parola simile si trova in quasi tutte le lingue del mondo, dall'arabo bijama, all'ungherese pizzama, pajama, appare anche in lingue come il basco e l'islandese. A differenza dell'inglese, che l'ho acquisito come sostantivo plurale, in Italia abbiamo optato per pigiama come singolare maschile, pluralizzabile in pigiami o anche in variabile. E allora andiamo a sentire anche il caffè. Quanti ne hai bevuti oggi? Troppi. Troppi, va bene, non li diciamo. E coffee, cave, cava. Non so se questi suoni evocativi pronunciation ci permettono di chiedere un caffè in quasi tutto il mondo, in effetti. Adesso proverò qua sotto se me lo fanno lo stesso, anche con cava. Questo perché la maggior parte delle lingue ha preso a prestito la parola kahve dalla turca, dalla lingua turca, che a sua volta si basa sulla parola araba più antica kawa. E non, diciamo, non ci siamo allontanati troppo da quel punto, abbiamo cambiato qualche vocale. Anche in Afrikaans il suono è più vicino a coffee. Scusate, mi viene un minuto di silenzio perché mi viene in mente Kofi Annan, so, deve, va bene, ho questi problemi, ma sempre ben riconoscibile. La parola caffè si è diffusa con popolarità della bevanda, un po' come è successo con Coca-Cola, che ci fa venire in mente ovviamente anche il Babbo Natale della pubblicità. Ma infatti aspetta, bloccati su questo. Mi blocco su questo. Che tu mi hai trovato lo spot Coca-Cola del Natale originale del 1984. Sentite. Che meraviglia, andrebbero proprio studiate queste pubblicità, perché vabbè, alcune in realtà erano anche molto sessiste, non inclusive, eccetera eccetera, cioè, ma alcune erano fatte proprio bene. Che clima. Che poi dopo questa non si può in realtà non rimettere un Feliz Navidad. Perché raga, se non l'avete capito, è il 21 dicembre, tra pochissimo è Natale. Sentiamola un po' quest'area di Natale, ma intanto noi ce la teniamo in sottofondo, così ce lo ricordiamo. Io sento già Jeff Bezos che si frega le mani, bambini, Natale. Siamo pronti, è Natale. Poi c'è un'altra parola, che è l'ok, che è considerata una delle parole più usate al mondo. Sì. Infatti, ok è iniziato a diffondersi attorno al 1830, periodo durante il quale gli Stati Uniti impazzivano per le abbreviazioni. Infatti, qualunque sia la sua origine, la parola si è diffusa così rapidamente per essere usata e compresa in quasi tutti i paesi per dire va tutto bene. Ci sono diverse teorie dietro la fortuna di ok. Una è di tipo estetico: la O curvata e la K inquadrata l'una accanto all'altra si fanno notare per contrasto. Mm-hmm. Un'altra è che i suoni di O e K, insomma sì, esistono nella maggior parte delle lingue e questa la renderebbe facilmente riproducibile. Quindi ok effettivamente è una parola importantissima e che conosciamo in tutto il mondo. Sì, infatti. Ma poi ce n'è anche un'altra che forse è ancora la parola più bella del mondo. Dilla mamma. Tu. Mamma. diciamo, questa parola non si capisce come mai, ma forse per la lallazione. Può essere. I bambini iniziano a parlare, diciamo, in questa maniera, baba, mamma. Papa. C'è stato anche un linguista del calibro di Roman Jakobson che suggerisce che la diffusione di una parola simile per indicare le madri di tutte le lingue avrebbe a che fare con lo. Cioè la madre in tutte le lingue avrebbe a che fare con lo sviluppo del linguaggio, appunto la lallazione probabilmente non è una serie di rumori casuali ma segue uno schema. Se arriva per primi, i bambini arrivano per primi al suono A, il più facile da riprodurre, però per chiudere le labbra serve un che è abbastanza naturale. Quindi io so che dopo questa cosa arriveranno dei meme o comunque delle canzoni. Li vogliamo. Con dei remix. Ma sta anche arrivando una canzone in realtà che più di tutte io è quella che dedico sempre alla mamma, che infatti è Sono un ribelle mamma, che ce la teniamo un po' in sottofondo, certo. Perché siamo un po' tutti ribelli. Assolutamente sì. Che bella è questa canzone. Sì. Le 4 del mattino avrei bisogno di parlarle un attimino. Alle 4 del mattino mi sembra giusto voler parlare con la mamma. Non è un incidente. E ci sa che la mamma si preoccupi. Certo. Non mi è successo niente. Stanotte si preoccupa. Eh sì. Non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Però la sveglia e poi non sta lì a dormire. In pigiama, no, la mamma in pigiama, perché ovviamente, insomma, è 4 del mattino. Povera. Sono tutti amici poi. Sì, dice, sì, ma con chi va? Con i miei amici. È un amico, un amico, un'amica. Sì, sì, sì. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non sta sveglia nella stanza. Che poi io devo dire, mia madre, una volta che si addormenta, dorme. E quindi in realtà, cioè, voglio dire, non. Io potrei anche non tornare, ma sì, sì, non si sveglia. Poi piuttosto magari se torno, apro un occhio e dice: ma che ore sono? Dicono: mamma, tutto bene, buonanotte. Però insomma, sono meravigliose le mamme. Ma poi ce n'è un'altra, l'esclamazione usata quando non capiamo ciò che qualcuno ha appena detto. Mi capita molto spesso, che hai detto? E sembra essere universale. Infatti, secondo uno studio interlinguistico condotto dai ricercatori, non dirò i nomi perché sono tantissimi, addirittura, e pubblicato sulla rivista Plus One, questa esclamazione avrebbe una funzione simile in tutte le lingue del mondo. Infatti è proprio bello questo, cioè come la nostra lingua in realtà, appunto, cioè le lingue in tutto il mondo, sì, poi abbiano queste cose che si collegano. Infatti è una funzione unica, anche il deve essere facilmente inserita in una conversazione senza interrompere troppo chi parla. Infatti, con l'evolversi di ciascuna lingua, tutti hanno scoperto indipendentemente che questo tipo di suono si adattava meglio. Però è da un po' che non ci stiamo ascoltando Finché la barca va. Ah, eccola! Cioè, se non la mettiamo per un po', è un problema. Assolutamente. Adesso esco di qua, prendo la mia barca e vado. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Beh, una volta Bologna era città di fiumi, quindi... Vedi, tutto torna. Ma infatti poi c'è un'altra parola che è chitarra. Infatti, sebbene sia più complicata da tracciare rispetto ad esempio gli ok, mamma, la parola chitarra trova comunque molte ricorrenze in lingue diverse. La chitarra moderna deriva da uno strumento medievale noto come chitarra latina, ma la chitarra spagnola ha radici nella parola greca chitarra o gitara araba. Ma sia la parola che lo strumento vanno molto più indietro. Tar, infatti, deriverebbe dai più antichi persiano e sanscrito, aprendo in altri nomi di strumenti come il tar e il sitar. Questa lunga evoluzione che attraversa i continenti ha creato una parola comune per strumenti simili in molte culture. Mamma mia. Ma l'ultima la lascio a te. Infatti con questa base non si può che ridere. E non sono Babbo Natale che dice ho ho, ma haha è la parola onomatopeica o fonosimbolo con cui descriviamo le risate, e questo vale in gran parte del mondo. Sì. Ogni lingua ha diversi modi di esprimere e scrivere il suono haha, ma senza allontanarsene troppo. Ad esempio in spagnolo sarà jia jia, e in Thailandia haha, dove il numero 5 si pronuncia ha, spesso per esprimere risate sulla tastiera si usa digitare 5555. Ma infatti io direi che da oggi in poi, anziché scrivere, perché poi quando è una risata proprio vera, io lo metto in caps lock. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma ora inizierò a mandare molti 5 e direi che ci meritiamo degli applausi, Yogi. Bravi. Bravi tutti, no, ma li senti in cuffia, ho trovato 30 secondi di applausi. Ah, non 90 direi, minuti. No, 90 minuti di applausi e salmo. Prego, sedetevi comodi, sta per iniziare lo show. Noi abbiamo questi 30 secondi di applausi. Anche la corazzata Potiomkin. Esatto, che possono però anche diventare un Feliz Navidad. È come dei mutanti, cioè sì, si sì, trasformano. Sì. In base a quello che vogliamo possono essere. O se no, appunto, ormai l'evergreen della nostra puntata, dov'è Bugo? La canzone è più ballata dell'estate, però. Che sta succedendo? Anche dell'estate, che ormai è inverno, perché oggi ricordiamo 21 dicembre, solstizio. Esatto. Quindi noi col solstizio vi ricordiamo fra pochissimo, in realtà, perché ormai sono le 16:19. Non ne sono neanche accorto. Esatto, cioè. Quindi è tra pochissimo che voi vi potete, insomma, potete trovare la stella di Natale, che non è quel fiore meraviglioso rosso. Giusto, Yogi. Esatto, giusto. Che chiamiamo il parere di un botanico, ma io direi sì, di sì. Botanici all'ascolto, ma appunto riscosta. Perché oggi è il giorno in cui si può osservare a occhio nudo per la prima volta dopo 800 anni il fenomeno celeste che ha guidato i magi verso Betlemme. Oggi insomma i re magi erano impersonificati da yogi, a cui in realtà oggi a yogi va il mio applauso. Grazie, grazie. Assolutamente, niente, guarda, fiori, goditelo tutto, assolutamente. Ma guarda, io vorrei anche i fiori, posso dirlo? Ok. Cioè, insomma, secondo me qualche... possono andare bene anche i fiori. Ma a proposito di fiori, qualche giorno fa è uscita una canzone che a me piace tantissimo e non è Feliz Navidad, ma è il nuovo singolo di Franco 126 featuring Calcutta. Loro non saranno a Sanremo 71, ma sono appunto questo, hanno fatto uscire questo brano che secondo me è veramente molto bello e si chiama Blue Jeans e ce lo ascoltiamo sui 103.1. Essere in un altro tempo, in cui se sbagli riparti da capo, ma il futuro che io avevo in mente sembra già far parte del passato. Le parole sono un mondo a parte e non servono che a complicare, che da solo mi sento di troppo e il giorno passa senza salutare. E non so come son finito qui, è come fossi entrato già a metà del film. Io avevo addosso gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca le stesse bugie. Quante volte ci abbiamo provato, dando voce anche al fiato sprecato, e i ricordi ci apprendono il largo verso un mare lontano da qui. Ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio. Ma pensa te, è tutto qua. Una reclam che vola via. E questa pioggia si stancherà. E il tempo corre sui fili. Siamo ombre tra le ombre, ai piedi del tramonto, orme tra le orme, lungo un binario morto. Siamo onde tra le onde, che fanno il mare mosso, storie tra le storie, ma nessuno sta in ascolto. E delle volte per vederci chiaro serve stare al buio. E per essere davvero sicuri occorre avere un dubbio. Ed un fiore che si schiude al freddo poi appassisce a luglio. E quello che resta sembra di cartapesta. E non so come son finito qui, è come fossi entrato già a metà del film. Io avevo addosso gli stessi blue jeans e tu avevi in bocca le stesse bugie. Quante volte ci abbiamo provato, dando voce anche al fiato sprecato, e i ricordi ci apprendono il largo, verso un mare lontano da qui. Ma forse va bene così. Oggi me ne sto da solo e sto per conto mio. Forse era un po' meglio prima, era un po' meglio anch'io. Vago in strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio. Ma pensa te, è tutto qua. Una reclame che vola via. E questa pioggia si stancherà. E il tempo corre sui fili. E questa canzone è super super bella, Franco 126 featuring Calcutta, Blue Jeans. Bella, io devo bella. Dire che in questi giorni me la sto già ascoltando abbastanza in loop, quindi io farei un applauso anche eccolo, a Calcutta, bravi. Insomma, e a Blue Jeans. Però prima noi abbiamo messo anche questo brano bellissimo dello Stato Sociale, che appunto è In due amori in tre una festa, che secondo me è un brano rivoluzionario. Appunto, vi ricordiamo che anche lo Stato Sociale sarà appunto a Sanremo 71esima edizione. Però quando parte questo pezzo, pere pepe, e c'è chi parte, c'è chi resta. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, pepe, se lo dice lo stato sociale, non possiamo che fidarci. Lo dicono loro: in due amori, in tre una festa. E aggiungerei: e che festa! Ma appunto, 71esima edizione. Ma poi abbiamo fatto anche una puntata molto in stile Grinch, perché sono arrivati dei messaggi in cui dicono: ma quanto è natalizia questa puntata? Non è vero, perché noi abbiamo messo anche il Grinch. Che io devo dire, da piccola amavo anche molto il Grinch, perché a me sto, insomma, pupazzetto verde, tutto spelacchiato, tutto spettinato, a me piaceva. Beh, io amavo anche E.T. Molto sofficioso. Esatto, insomma, io amavo il Grinch, E.T. e Stitch. Quindi devo dire che io probabilmente con la mostruosità mi ci trovavo in realtà. Quindi, boh, non so, io mi farei un applauso da sola, posso? Puoi farlo. Grazie. E questo momento è tutto per te. Grazie. E io allora rimetto il Grinch, ma poi come non ricordare anche il bellissimo video che ci è arrivato al 333-180-94-94 della URAS, in quel della Liguria, che tu pensi è tornata in Liguria, andrà al mare, e invece no, ti manda le foto che fa il pupazzo di neve. Quindi è una cosa veramente geniale. Bravo. Non esistono più le mezze stagioni. Direi un applauso anche per il pupazzo. Beh, assolutamente un applauso al pupazzo, che io a questo punto direi che quel meraviglioso pupazzo di neve ha vinto il fuscichino d'oro. Eh sì, diamolo, eh sì, insomma, alla neve, al pupazzo di neve. Quindi applauso, perché abbiamo finalmente consegnato metaforicamente il nostro fuscichino, esatto, d'oro. In realtà noi siamo quasi in dirittura d'arrivo, quindi secondo me un altro pezzettino dopo l'applauso di Feliz Navidad, ecco, ci sta, insomma, per ricompensare chi in realtà sta amando il Natale. Questa canzone è meravigliosa. Eh sì, José Feliciano. José. José, caffè José. Ma in realtà, appunto, vi abbiamo parlato di tantissime cose. Ma è anche arrivato un messaggio, poi ufficialmente vi saluteremo, che ci sono tante cose buffe nelle lingue, tra cui ad esempio si pronunciano i versi degli animali in modo diverso. Tu lo sapevi? Ah, questo me l'aveva detto, sì. Tipo miau, meow, o il gatto bau bau, woof woof. È vero, è vero. Quindi effettivamente, Yogi, dobbiamo rifare appunto una puntata. Oppure il caffè, che è arrivato qua nell'Ottocento, insomma in Occidente, insomma, ed è stato servito nei bar e nei caffè ed elogiato. Quindi c'era la contrapposizione del vino alcol col caffè. Quindi c'è una storia dietro a tantissime cose che noi diciamo, mangiamo, facciamo. E appunto, ritornando un po' nel mood in due amore, in tre una festa, o anche appunto nei nostri balli di gruppo che vi abbiamo trasmesso, vediamo se li ritrovo. Oppure, insomma, io chiuderei anche con questo, con i Minions. Vai la gioia, ma porca troia. Ups, bisognerebbe fare tipo beep. Oppure, insomma, lei che è stata... Tu in realtà sei stata un po' la mia Orietta Berti oggi. Posso dirlo? Sono un po' sì, sì, sì. Meno male. Meno male, dai. Sì, sì, sì, sì. Fatto da timoniere. Esatto. Però bene. Tu andavi avanti lo stesso, quindi io ti finché ho la barca va. Finché la Lucri va. Sì, oggi, esatto, Lucri e i suoi caffè erano molto preponderanti. Mai finito il nostro tempo. Tra pochissimo, subito dopo una velocissima reclam, come ogni lunedì che si rispetti, c'è il disco della settimana del Festival Backpack, Mauro ed Erika. Io vi consiglio di rimanere sintonizzate e sintonizzate in questa ultima settimana natalizia di Fujiko Factory. Grazie, Yogi, per essere stato grazie in mia e nostra compagnia. E quindi ci risentiamo prestissimo, sui, certo, 103.1. Ciao! Ciao!